Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Lavori pubblici per 19 miliardi di euro congelati dall'emergenza Covid, così l'autorità anticorruzione nella relazione annuale. Vola la spesa per tamponi e mascherine. Istat, disoccupazione a maggio al 7,8%, dopo il grande freddo cresce il numero delle persone in cerca di un lavoro. Hong Kong, la Cina annuncia reazioni contro Londra sulla questione dei visti, governo americano verso le sanzioni. In Russia la vittoria del sì con quasi l'80% al referendum sui nuovi poteri di Putin. Calcio, dopo la vittoria dell'Inter, ieri sera, oggi in campo Atalanta-Napoli, Roma-Udinese. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati dunque con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la relazione annuale dell'autorità anticorruzione, che parla del congelamento dei lavori pubblici durante il lockdown. Ha messo in guardia l'autorità anticorruzione anche sui costi elevati lievitati per mascherine e tamponi. E poi naturalmente ha parlato anche del fenomeno della corruzione in Italia, definito fenomeno puntiforme e molto diffuso. Malgrado i provvedimenti adottati negli ultimi anni e l'impegno dell'ANAC, rimane purtroppo una piaga del nostro paese. La corruzione mina la coesione sociale, lo sviluppo, la credibilità internazionale, dice il presidente della Camera Fico introducendo la relazione dell'autorità anticorruzione, un fenomeno polverizzato, multiforme, che coinvolge quasi tutte le aree del paese e che ha approfittato anche della pandemia, dirà il presidente Francesco Merloni, e in riferimento agli effetti definiti devastanti dell'emergenza Covid di questi mesi sono continui. Abbassare la guardia, alimentare la percezione generale che il problema della corruzione non sia poi così rilevante, soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo, sarebbe un grave errore e un arretramento rispetto agli importanti passi avanti compiuti. Merloni sottolinea in particolare l'abnorme lievitazione dei prezzi rispetto al periodo pre-Covid, la forte variabilità degli stessi sul territorio nazionale, comportamenti speculativi sulle forniture. Per superare la crisi, però, secondo l'ANAC, non bisogna farsi affascinare da modelli che propongono pochi controlli e deroghe alle leggi sugli appalti. Per l'ANAC, infine, un vero e proprio terremoto dal Covid è arrivato sul settore degli appalti pubblici, scesi di un terzo nel primo quadrimestre del 2020. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora i dati sul lavoro in Italia. A maggio, segnala l'Istat, con le graduali riaperture dopo il periodo del lockdown, torna a crescere il numero delle persone che sono in cerca di un lavoro e il tasso di disoccupazione si porta al 7,8%. Mezzo milione di occupati in meno. Arrivano i dati Istat a certificare le conseguenze dell'emergenza Covid. Da febbraio 2020 il livello di occupazione è diminuito di oltre 500.000 unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400.000, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900.000 unità. Rispetto a un anno fa, il calo dell'occupazione si attesta a meno 2,6%, pari a 613.000 unità. I dati di maggio sottolineano che comunque con la graduale ripresa delle attività c'è un'evoluzione diversa rispetto a quella dei mesi precedenti, con una diminuzione dell'occupazione più contenuta, meno 0,4%, pari a 84.000 unità, per tre quarti donne. A maggio il tasso di disoccupazione risale al 7,8%, più 1,2 punti, e tra i giovani al 23,5%, più 2 punti. E intanto si apprende che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvierà verifiche su oltre 1.000 licenziamenti avvenuti durante il lockdown. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso andiamo all'estero, cominciamo da Hong Kong, dove continua a salire la tensione. I manifestanti annunciano di voler andare avanti con le proteste al grido di "non ci arrenderemo mai", mentre gli Stati Uniti potrebbero varare delle sanzioni contro i dirigenti cinesi legati alla legge sulla sicurezza. Anche la Cina però annuncia che reagirà. Prenderemo misure adeguate, ribatte l'ambasciatore cinese a Londra, prendendo atto dell'intenzione dichiarata dal premier britannico Johnson di facilitare il regime dei visti verso gli abitanti di Hong Kong, dotati dello status di British Overseas. Iniziativa ribadita dopo la giornata di ieri, in cui è entrata in vigore la nuova legge per la sicurezza, tra forti contestazioni e 400 fermi di polizia, tra i quali una quindicenne. I manifestanti sono ancora una volta scesi in piazza perché convinti che la nuova legge fornisca a Pechino gli strumenti per ridurre i diritti e le libertà che invece aveva promesso di mantenere nell'ex colonia britannica. Timori confermati nel parere espresso oggi dall'Ordine degli Avvocati di Hong Kong. Negli Stati Uniti, intanto, è passato dalla Camera al Senato il progetto di legge che autorizza sanzioni contro le banche che fanno affari con i funzionari cinesi coinvolti nella legge per la sicurezza nazionale di Hong Kong. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Restiamo all'estero. Una frana ha colpito oggi una miniera di giada nel nord del Myanmar, uccidendo almeno 50 minatori, lo hanno reso noto i vigili del fuoco. I minatori di giada sono stati investiti da una ondata di fango che ha colpito la miniera dopo forti piogge, ha annunciato il capo del dipartimento dei vigili del fuoco del paese, aggiungendo che le squadre di soccorso sono ancora impegnate sul posto. In Russia invece il sì al referendum sui nuovi poteri del presidente della federazione ha ottenuto il 77,9% dei voti, lo ha fatto sapere la commissione elettorale. Alta l'affluenza con il 65% dei votanti. Le modifiche costituzionali eliminano il vincolo del doppio mandato che consentirebbe a Putin, in caso di rielezione, di governare fino al 2036. Prevista anche una stretta contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece torniamo in Italia con la politica. La tenuta della maggioranza messa a dura prova dal decreto semplificazioni, definito da Conte la madre di tutte le riforme, il cui esame in Consiglio dei Ministri è stato però rimandato. I nodi da sciogliere sono la riforma dell'abuso d'ufficio e soprattutto l'elenco delle opere da realizzare con procedure accelerate sul modello Genova. Intanto invece si confermano fortunatamente in diminuzione ancora una volta i dati sul coronavirus in Italia, mentre l'epidemia preoccupa ancora in diversi paesi. Con un record di 52.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti si confermano l'epicentro mondiale della pandemia. Di fronte alla nuova impennata di contagi, la California ha di nuovo ordinato a bar e ristoranti di chiudere le loro attività all'interno e limitarsi a servire i clienti solo all'esterno. A preoccupare anche la situazione in Brasile, dove le vittime del coronavirus hanno superato quota 60.000. In Europa i contagi hanno ripreso a salire in Austria, in alcune zone del nord del paese è stata disposta la chiusura delle scuole. In Italia invece nelle ultime 24 ore si sono registrati 182 nuovi contagi, di cui 109 nella sola Lombardia e 21 vittime. Dati che confermano il trend in calo, il ministro della Salute Speranza avverte però che la comunità scientifica non esclude una seconda ondata di coronavirus e per questo rinnova il suo invito ad usare la mascherina, lavare spesso le mani ed evitare assembramenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito dell'epidemia di coronavirus in Italia e delle categorie che ha colpito in particolar modo, i medici, gli infermieri, i sanitari, ebbene non ci sarà alcun risarcimento per i medici di famiglia, i farmacisti morti per il Covid, per le assicurazioni. Infatti l'infezione non è considerata infortunio sul lavoro. Sentiamo. I medici di famiglia del 118 e gli infermieri che si sono ammalati di coronavirus assistendo i pazienti non saranno indennizzati per i danni subiti, così come non avranno nulla le loro famiglie se sono deceduti, nonostante per anni abbiano pagato un'assicurazione. Questa è l'amara constatazione che avviene per una questione interpretativa giuridica per cui le compagnie non riconoscono l'infezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro. Solo chi è assicurato con l'INAIL è tutelato da questi rischi. Gli esclusi sono migliaia, come appunto i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti, i dentisti, professionalità tra le quali ci sono stati tanti contagiati e morti. I medici di medicina generale di solito pagano volontariamente una polizza assicurativa che copre i danni da infortunio, versando una media tra i 1.000 e 2.000 euro l'anno. Nel loro caso, a differenza dell'INAIL, però, le compagnie private escludono che il contagio possa essere considerato infortunio e non coprono i danni. Una discriminazione che riguarda più di 100.000 professionisti e che aprirà un enorme contenzioso giudiziario. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la delibera della Regione Umbria di qualche giorno fa, ricorderete, sull'obbligo di ricovero di 3 giorni in caso di interruzione di gravidanza con pillola RU486 che ha fatto infuriare le associazioni delle donne, oggi c'è una nuova manifestazione a Roma. A 42 anni dall'approvazione della legge 194, ancora una volta le donne scendono in piazza per il diritto all'aborto e per una contraccezione sicura e gratuita. Come se il tempo non fosse passato, come se i diritti non fossero acquisiti per sempre, la legge 194 continua ad essere messa in discussione. In Italia il 70% dei ginecologi è obiettore e 10.000 donne rischiano ancora la vita per interruzioni illegali. Oggi, dopo Perugia, dove c'è stata una mobilitazione alcuni giorni fa contro la delibera della giunta leghista umbra che reintroduce l'obbligo di 3 giorni di ricovero per le donne che decidono di abortire con la RU486, nuovo presidio a Roma al Ministero della Salute per invitare le istituzioni preposte a tutelare e garantire i diritti sessuali e riproduttivi, sollecitando nuove linee guida sull'aborto, più fondi per i consultori e contraccettivi gratuiti. Dal 2016, infatti, in controtendenza rispetto ad altri paesi europei e salvo alcune eccezioni regionali, la contraccezione è tutta a carico dei cittadini. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13-11 minuti, siamo allo sport con il calcio. Anche oggi l'attesa per le ultime due partite, Atalanta-Napoli, Roma-Udinese. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, attesa per le ultime due partite, soprattutto c'è Atalanta-Napoli, che è davvero interessante perché sono probabilmente le due squadre più in forma di questa ripresa. Quanto a ieri, abbiamo visto 6 squilli dell'Inter affondare il Brescia 6-0 a San Siro. Abbiamo visto il Milan in una partita difficilmente spiegabile, poi proveremo a spiegarla, però vai a dire che il Milan non ha giocato una brutta gara, ha fatto un sacco di tiri in porta, eppure perdeva 2-0 sul campo della Spal, penultima, ridotta in 10 dopo mezz'ora. È riuscito a fare 2-2 e si è rivisto Ibrahimovic. Poi la Fiorentina, che ha perso in casa con Sassuolo, conferma il suo momento decisamente negativo. Positivissimo quello del Verona, che in rimonta batte 3-2 il Parma. Tutti i temi su cui torneremo in tutti i convocati alle 14. Alessio. Grazie Carlo, grazie. Appuntamento dunque a dopo con il pomeriggio sportivo di Radio 24. 13-12 minuti, noi invece facciamo il consueto break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie con il segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Scotti. Parleremo di come sia possibile che ci siano eroi di serie B, medici di famiglia senza copertura assicurativa per il Covid. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Lavori pubblici per 19 miliardi congelati dal Covid, secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che avverte spesa lievitata per tamponi e mascherine. Hong Kong, la Cina annuncia reazioni contro Londra sulla questione dei visti, governo americano verso le sanzioni. La Russia invece, la vittoria del sì con quasi l'80% al referendum rafforza i poteri di Putin. Medici di famiglia senza copertura assicurativa per il coronavirus. Da eroi a vittime di serie B, denunciano familiari e sindacati, ne parliamo tra poco. Calcio dopo la vittoria dell'Inter ieri sera, oggi in campo Atalanta-Napoli e Roma-Udinese. Tredici e 16 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Come anticipato anche dai titoli, è con noi il segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Silvestro Scotti. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto Scotti. Allora, la questione è quella del mancate coperture assicurative per le vittime, i medici di famiglia vittime del Covid, e i mancati risarcimenti per i loro familiari nel caso in cui siano state si sia trattato di veri e propri decessi, come è successo a decine di loro. Una realtà che è emersa in queste ore, che sicuramente fa veramente a pugni con la narrazione, no, di queste ultime settimane, con i medici eroi o anche semplicemente gli annunci di voler rafforzare la sanità sul territorio, puntando proprio sui medici di famiglia. Invece è una realtà che, ahimè, sembra allinearsi tristemente con altri aspetti di realtà che conosciamo bene, la mancanza di dispositivi di protezione durante l'emergenza che i medici avevate denunciato, il calo di vocazioni per una questioni varie legate anche agli stipendi o anche a tutta una serie di questioni di cui abbiamo parlato tante volte. E adesso ci spiega però come si aggiunge questo tassello, Scotti, cioè come funziona la copertura assicurativa dei medici di famiglia e perché in alcuni casi le persone, i medici e i loro familiari sono rimasti scoperti rispetto a questa questione dell'evento virale che sembra non essere previsto da queste assicurazioni. Ma guardi, questo è tutto da dimostrare, secondo me, perché formalmente i medici di famiglia hanno una copertura assicurativa che viene determinata dal loro contratto, dall'accordo collettivo nazionale, trattenuta sullo stipendio, riversata all'ente previdenziale che stipula delle apposite assicurazioni di copertura per i primi 30 giorni e per la copertura, per un'altra parte, di infortunio fino al caso morte. Quindi in qualche modo adesso il problema è la possibilità di trovarsi di fronte delle assicurazioni private che reinterpretano in qualche modo questa rischiosità, ovviamente valorizzandola rispetto alla non copertura del premio in qualche modo. Però è tutto da dimostrare che formalmente i medici non siano coperti, perché per diciamo, la malattia questa è la vostra è fuori discussione. Sì, sì. Per la malattia è fuori discussione, poiché la stessa assicurazione comporta anche la copertura nel caso di infortunio, caso morte, è chiaro che a conseguenza della malattia precedente, che è chiaramente legata a un modello di malattia professionale, con la morte successiva, il problema va definito o nelle sedi previste dalla polizza assicurativa, che prevedono le commissioni paritetiche dove saremo al fianco dei nostri medici a difendere il loro diritto e quello delle loro famiglie. Va anche detto che, per esempio, cosa che poco è stata pubblicizzata, ma proprio sull'azione della FIMI, cioè del sottoscritto, è stato anche chiesto all'EMPAM ed è all'analisi dei ministeri vigilanti, che però non rispondono, nonostante siamo eroi, sì, non meritiamo risposta, perché i medici di solito per l'EMPAR morti, ahimè, in età giovanile, vedono riconosciuto solo 10 anni di trattamento previdenziale, quindi si rischia per i medici più giovani, addirittura delle famiglie, quelle con più difficoltà, con figli piccoli però, e quant'altro, non sì, abbiano un riconoscimento. Noi abbiamo proposto invece che il riconoscimento gli valga la piena vita professionale. Ecco, queste aspettiamo sono le che il ministero si svegli. Esatto, queste sono le vostre proposte, le vostre richieste che avevate fatto anche a suo tempo, perché questa questione era già in qualche modo emersa. Lei dice è tutto da dimostrare che queste polizze assicurative non coprano questo evento, però il fatto è stato sollevato, Scotti, è stato sollevato dal Corriere e mi sembra che c'entri un punto, cioè la differenza con i medici ospedalieri che invece hanno una copertura INAIL che, da quello che è stato denunciato dai medici di base stessa, è diversa in questa fase dalla loro copertura. Guardi, no? Su questo l'INAIL abbiamo fatto degli incontri anche per definire la modalità di percorso e formalmente l'INAIL ha un costo per queste coperture, viene in qualche modo coperto all'interno delle masse salariali dei vari soggetti in maniera differente. La domanda che io farei alle aziende sanitarie, alla stessa INAIL, perché all'interno del contratto della medicina generale, dove ci sono per esempio i medici di guardia medica e i medici dell'emergenza territoriale, dove c'è un obbligo contrattuale delle aziende sanitarie a contrarre, sì, loro un'assicurazione per gli infortuni, visto che questi medici lavorano all'interno delle strutture delle aziende, in quel caso le aziende non hanno stipulato l'assicurazione con l'INAIL. Allora, ci sono all'interno del contratto della medicina generale 3 categorie. 2 avrebbero già avuto, stante il contratto attuale, la possibilità di formulare un'assicurazione con l'INAIL e le aziende sanitarie non l'hanno fatto. 1, che ha una connotazione diversa, il medico di famiglia non lavora in una struttura aziendale ma lavora in uno studio proprio, quindi bisognerebbe chiarire se quella quota che dovrebbe essere versata poi all'INAIL sarebbe in carico alle aziende sanitarie, sarebbe in carico allo stesso medico, sì. Perché in qualche modo siamo dei liberi professionisti convenzionati. Esatto, è questo il punto. No, però Scott, io le vorrei chiedere, anche al di fuori un po' dei tecnicismi che giustamente lei ricordava perché sono parte di questa questione, se lei non teme che insomma, questa realtà che sta emergendo, insomma, queste denunce da parte di questi medici non possano poi contribuire, come dire, ad aggravare questo fenomeno che abbiamo visto negli ultimi anni, cioè di una appunto carenza di vocazioni, di aspiranti medici di base anziani che vanno in pensione e non vengono sostituiti per tutta una serie di problemi. Non vorrei che questa, che è anche ora una battaglia aperta per voi, no? Di avere un giusto riconoscimento come gli altri professionisti della sanità, possa però, diciamo, aprire un fronte di scoraggiamento e di disincentivo ad una professione che invece poi è stato appena detto, bisogna rinforzare la sanità territoriale, bisogna puntare sui medici di base perché si è capito con questa emergenza quanto invece siate importanti. Beh, sinceramente noi dopo la fase in cui abbiamo affrontato il Covid a mani nude, perché poi l'altra parte di questa discussione di cui evidentemente lo Stato si deve fare carico, se mi permette, è il fatto che quei medici possano essere morti anche o infettati in conseguenza di inadempienze da parte dell'azienda sanitaria. Rimane sospesa la discussione sulla fornitura dei dispositivi di protezione individuale. Come faceva il medico di famiglia a procurarsi dispositivi di protezione individuale in un momento in cui venivano addirittura sequestrati alla frontiera? Era compito delle aziende sanitarie fornire questi presidi indispensabili per la continuità di cura e non lasciare quei medici sui territori organizzati da soli a mani nuda a rischiare quello che hanno rischiato. Il problema non si ferma solo alla fase dell'assicurazione dell'INAIL, se mi permette, perché la fase 2 sarà la responsabilità delle aziende sanitarie nei confronti di questi soggetti, e le posso garantire che FIMG sarà al fianco dei familiari fino all'ultimo grado per andare a definire se si fa parte di un servizio sanitario nazionale a fronte di una pandemia del genere, se era così normale che a questi medici non fossero fornite le basi di strumentazione utili non solo a evitare il contagio per se stessi, ma anche ad evitare che contagiassero gli altri. Vorrà dire che ci metteremo nella fila di quelli che chiederanno conto a uno Stato di aver trattato in maniera differenziale soggetti, risorse umane all'interno del servizio sanitario nazionale. Senta, Scotti, non sì. Mi pare una responsabilità che lo Stato possa far finta di non vedere. Eludere. Un'ultima cosa le voglio chiedere, sempre tornando un po' in generale, in questa fase sono stati annunciati diversi investimenti proprio per potenziare la sanità. Le chiedo se lei pensa che sia la volta buona, che si possa invertire la rotta, che sempre a causa di questa emergenza coronavirus in tutti adesso, diciamo, in qualche modo ammettono, cioè che ci sono stati investimenti nella sanità in Italia, sì, sempre in leggero aumento anno dopo anno, ma sempre in una rincorsa mai raggiunta con le necessità crescenti del sistema sanitario, che sono legate fondamentalmente all'invecchiamento della popolazione e ai nuovi carichi del sistema. Pensa che questa fase sia quella giusta per invertire questa tendenza? Penso anche ai medici che hanno espatriato, che sono andati a lavorare all'estero dove si lavora meglio e si guadagna di più. Credo assolutamente di no per quello che stiamo vedendo. Si è parlato tanto, ma gli investimenti che si stanno facendo si continuano a fare nella direzione sbagliata. Noi dovremmo ancora parlare dei 235 milioni dell'ultima finanziaria per diagnostica nello studio del medico di famiglia. Lei mi spiega perché si sono potuti fare senza adempimenti tutte le spese durante il Covid e quei 235 milioni sono ancora fermi in conferenza delle regioni per decidere come apprezzare i medici in un momento come questo, per evitare liste d'attesa, per curare meglio a domicilio in prossimità i pazienti cronici e anziani. E nel frattempo si investono le risorse verso un'altra figura professionale che per carità è assolutamente utile, come quella dell'infermiere di famiglia, ma la si mette nel distretto e non nello studio insieme a me, a collaborare con me in prossimità e in domiciliarità. Mi sembra tanto che si investano soldi, come di solito si fa in Italia in vista delle campagne elettorali, per aumentare il consenso occupazionale, ma senza avere un progetto serio per il rilancio del territorio. Grazie Scotti, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a lei. Insomma, grazie anche per aver condiviso questa analisi accurata, critica, dove per una volta si mette da parte, diciamo, l'ottimismo della volontà, che c'è sempre quando parliamo di una professione come quella della medicina, però poi occorre anche la, come dire, la razionalità, l'analisi critica dei punti sbagliati su cui focalizzare l'azione per migliorare. Mi sembra che il lavoro ce ne sia ancora molto da fare per quanto riguarda il rilancio del sistema sanitario nazionale, almeno dal punto di vista dei medici di base. Adesso apriamo una finestra invece sugli esteri, perché in Russia sono passati gli emendamenti alla Costituzione, ne abbiamo già parlato con una breve notizia nella prima parte di Effetto Giorno. Insomma, c'è stato questo referendum che è durato 7 giorni a causa formalmente del Covid e che insomma ha portato alla fine a votare il 67% dei russi. Il 78% ha detto sì, si è sintetizzato dicendo maggiori poteri per Putin, ma dentro ci sono tante cose. Forse questo è anche un po' una parte della spiegazione di questo apparente plebiscito nei confronti di Vladimir Putin. Laura Bettini ne ha parlato con Igor Pellicciari, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università di Urbino. Questo referendum, coincidendo appunto con la crisi del Covid pandemica da un lato e la guerra del greggio dall'altro, ha caricato il voto del referendum di molti altri significati. Il risultato, alla luce di queste premesse, è stato uno scampato pericolo, l'ennesimo, diciamo così. E però chi non è andato a votare questa volta era obiettivamente un voto, l'astensione equivaleva a un voto contrario, quindi tra astenuti e contrari, per quanto chiaramente in minoranza, c'è uno zoccolo duro che probabilmente si è compattato. Al di là della possibilità per Putin di ricandidarsi a questo punto, quali altre novità vengono introdotte? L'indicizzazione delle pensioni automatica, il minimo salario minimo, la centralità della lingua russa e la centralità di Dio. È chiaro il tentativo di tagliare il cordone ombelicale con l'ultimo atto formale che era rimasto in piedi dagli anni 90. Non è esagerato dire che la Russia non è che svolta pagina, ma certifica che ha voltato pagina. Nuovo focus adesso, sempre restando all'estero, e questa volta Daniele Biacchessi ci porta in California per raccontare quella che può essere definita l'ecatombe californiana a causa del Covid. Sentiamo. La diffusione dell'epidemia negli Stati Uniti tocca vette sempre più preoccupanti, 2.635.417 contagiati, un rapporto con la popolazione dello 0,79%, 127.417 deceduti con un tasso di mortalità del 4,83%. Oltre a New York, Florida e Texas, il balzo maggiore dei contagiati si è verificato in questi ultimi giorni in California, tanto che il governatore Newsom ordina la chiusura dell'attività all'interno di bar e ristoranti, lasciandoli servire soltanto all'esterno. Nel sud della California chiudono le spiagge per il prossimo weekend, che culmina con le celebrazioni del 4 luglio. I dati disponibili confermano una vera e propria ecatombe californiana. 238.000 casi conclamati, 2.000 in meno di quelli accertati in tutta Italia, 6.162 decessi. Tutto avviene in mezzo ad una campagna elettorale dai toni duri e aspri. L'ultimo sondaggio di Politico diffuso in queste ore parla di un gradimento espresso nei confronti di Trump precipitato al 39%, con il 59% degli intervistati che boccia l'operato del presidente proprio per la gestione del coronavirus. Joe Biden consolida invece il suo vantaggio. Secondo USA Today, il candidato Dem alla Casa Bianca guida con 12 punti di distacco. È vero, dirà qualcuno, i sondaggi spesso non ci hanno preso, ma che qualcosa si sia rotto nel rapporto tra americani e Trump pare fin troppo evidente. Eccoci qua a 13:30 e allora siamo alla pausa per quanto riguarda le informazioni di borsa, poi torniamo con i titoli, tutte le altre notizie 349-238-6666, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Queste notizie di oggi, corruzione in aumento secondo l'autorità anticorruzione, secondo la quale nel 2019 sono stati comunicati 633 provvedimenti, il 10% in più rispetto al 2018. Russia per il Cremlino, il voto del 78% dei russi a favore della riforma costituzionale è un trionfo di Putin, sì, ai pieni poteri ma anche maggiori restrizioni per i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Patto di stabilità, attenzione a riattivarlo troppo presto, così il commissario europeo Paolo Gentiloni frena sull'intenzione di Bruxelles di tornare presto alle vecchie regole di spesa. Traffico illecito di rifiuti, operazione della Guardia di Finanza nel Milanese, 14 arresti e sequestri per 15 milioni. Calcio, dopo la vittoria dell'Inter ieri sera, oggi in campo Atalanta, Napoli e Roma Udinese. minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo dritti al punto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Sembra già finito il tempo dei fantastiliardi. Da Bruxelles ci dicono con chiarezza che presto tornerà lo spettro del patto di stabilità e quindi l'incubo sulle percentuali di debito e deficit. Se ne parlerà in autunno, ma dal governo hanno messo le mani avanti. Nel 2021 le deroghe decise per la pandemia e in scadenza a fine anno dovranno continuare, anche perché il debito vola verso quota 167% del PIL, il fabbisogno nel primo semestre è triplicato e la prospettiva è quella di un deficit all'11,6%. I paesi del nord Europa, come sempre, non sono per nulla d'accordo e aspettano l'Italia alla prova del MES, che ormai si è capito è una bandiera tutta politica, sia per i nostri avversari sia per le forze politiche italiane. In Europa considererebbero la richiesta del MES per gli investimenti nella sanità come un atto di fiducia nell'Unione Europea e come una sorta di preliminare per la messa a punto delle risorse, in parte a fondo perduto, del Recovery Plan, su cui l'Italia conta moltissimo per il rilancio degli investimenti. In Parlamento presto ci sarà la prova del voto sullo scostamento di altri 20 miliardi di deficit. Servirà la maggioranza dei due terzi. Per governo e opposizione un'occasione per affrontare ciò che si tende a dimenticare, che quei fantastiliardi prima o poi bisogna restituirli. Così dunque Alberto Orioli. Adesso, come avete sentito dai titoli, ci occupiamo di una notizia che è questa. La Guardia di Finanza nel Milanese ha portato a termine un'operazione su un traffico illecito di rifiuti, 14 persone arrestate, molte di più le persone coinvolte e anche un sequestro per 15 milioni di euro. È con noi il tenente colonnello Luca Brioschi, comandante del gruppo di Legnano della Guardia di Finanza. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, prima di parlare di questa operazione, una piccola premessa, perché mi sembra che ancora una volta questo intervento vostro metta in luce, insomma, un meccanismo sempre più diffuso nel traffico dei rifiuti, che diventano sempre più l'oro attuale. Oro perché in Italia, a fronte di una mancanza di impianti sufficienti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto rifiuti speciali che spesso e volentieri sono esportati all'estero, perché il sistema Italia non ha impianti sufficienti, ebbene questi rifiuti diventano una fonte evidente di guadagno, perché insomma, il loro smaltimento, chi si offre facendo anche delle scorciatoie illecite di trattare questo smaltimento, si fa pagare profumatamente e diventano, diciamo, non solo guadagni facili, ma poi andiamo incontro anche al guadagni facili per le mafie, andiamo incontro poi anche ai danni ambientali, perché colonnello, questi rifiuti poi realmente dove venivano smaltiti? Che cosa, partiamo dall'inizio, che cosa avete scoperto con questa operazione? Allora, guardi, l'indagine di oggi, che si è conclusa con l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Milano, ha riguardato un'associazione delinquere che si è incardinata principalmente nell'area della Lombardia, nella provincia di Milano, con alcune ramificazioni in Piemonte e delle propensioni all'estero, più precisamente in Croazia ed in Ungheria. È un'associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, in questo caso parliamo di rifiuti di rottami ferrosi, quindi materiale di risulta di cantieri, quindi rifiuti che vengono qualificati come speciali non pericolosi. Sì. Destinati normalmente a che tipo di smaltimento, se, seguendo le forme legali? La parte ferrosa segue la catena fino a rientrare nell'industria siderurgica, quindi per avviarsi per le fonderie. E invece quindi, in questo caso, qual era il percorso, le strade seguite da questi trafficanti che appunto si offrivano di smaltire i rifiuti illecitamente? Che fine facevano questi rifiuti? Poi c'è anche una parte finanziaria. La parte che abbiamo curato noi in questa indagine, diciamo che è il livello più basso, quindi noi siamo partiti dai primi intermediari che trattano, ecco, sono dei veri e propri commercianti di questi rifiuti, che solitamente acquistano in nero, acquistano per contanti partite di rifiuti di risulta, per poi conferirli in centri autorizzati al trattamento, che sono di livello sicuramente superiore. La cosa che ha impressionato... Dove sta però l'illecito, colonnello? Perché se io sono un intermediario e che faccio tutto in regola, non incorro in nessun reato. Invece qua, dov'era l'illecito? L'illecito sta nel fatto che il produttore iniziale viene sistematicamente occultato e rese praticamente impossibile per le autorità seguire la filiera del rifiuto, che invece secondo la normativa è rigidamente controllata e deve essere identificabile in ogni momento. A questo si aggiunge un giro vorticoso di fatture per operazioni inesistenti che permettono un'evasione fiscale sistematica. Quindi non solo il danno ambientale, perché è chiaro che quando questi rifiuti non seguono i percorsi corretti di smaltimento si crea questo, ma c'è anche un danno erariale, la truffa, a dimostrazione che, come diciamo prima, i rifiuti fanno guadagnare le mafie. Alla luce anche di questa operazione, per voi è possibile stimare, valutare quanto sia esteso questo tipo di traffici, quanto sia esteso questo fenomeno? Insomma, avete indagato per quasi 4 anni, se ho capito bene, prima di arrivare a questa operazione. A noi quello che abbiamo accertato è stata una movimentazione sulla carta di circa 74.000 tonnellate di rifiuto ferroso. In realtà la parte reale la potremmo quantificare in circa un terzo, quindi 2/3 sono movimentazioni fittizie che servono solo per generare un'enorme movimentazione di denaro che in buona parte finiva all'estero, su società sempre riconducibili agli indagati, sui conti correnti delle quali poi venivano monetizzati in contanti e riportati in Italia per seguire l'attività. Quindi la parte importante è stata quella dell'accertamento dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Va bene, grazie colonnello Brioschi per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro al comandante del gruppo di Legnano della Guardia di Finanza. Noi siamo giunti al momento in cui tra poco arriva con noi Giulia Crivelli, Effetto Mondo.